Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Le borse invariate, praticamente quasi tutte, Londra invariata, Milano invariata, invece guadagna più o meno lo 0,60% Parigi e perde lo 0,40% Francoforte, l'America guadagna lo 0,22%, euro quota 1,2712, molto bene Finmeccanica più 6,20%, ieri la trimestrale con un utile in netto aumento, poi ne parleremo, Telecom Italia più 3,90, Saipem più 2%, come Parmalat, Mediaset più 1,70, Terna più 1 come l'Automatica e Ansaldo STS. Fronte opposto, Mediolanum meno 4,60%, Autogrill meno 3,20, Mediobanca meno 2,40 come Atlantia, Banco Popolare meno 1,80 come la Popolare Emilia Romagna, l'1,70 lo perde Ubibanca, l'1,30 il calo di Monte dei Paschi e Prismian, l'1,20 quello di Generali e di Buzzi Unicem. I temi di questa giornata, come promesso, ci occuperemo di nuovo delle province, perché avevamo annunciato ieri, dopo aver ascoltato le dichiarazioni molto forti, che vanno benissimo per carità, del Presidente delle province italiane, Antonio Saitta, che questa mattina è tornato, lo ascolteremo, ospite di Oscar Giannino, sulla minaccia. Attenzione, le province italiane decideranno a breve la chiusura dei riscaldamenti delle scuole e conseguentemente l'aumento delle vacanze per gli studenti. Beh, ci siamo posti la domanda se, con tutto rispetto per le province italiane, visto che stiamo ragionando di accorpamenti, non di chiusure, e per carità i soldi sono pochi, ma se prima di arrivare al spegnimento del riscaldamento nelle scuole e quindi all'aumento delle vacanze non si potessero spegnere altri uffici, se questo è il processo. È sembrata molto un ricatto, un terrorismo politico. Attenzione, spegneremo le scuole dove vanno i vostri figli. Beh, magari inizia a spegnere i termosifoni del palazzo della provincia, poi spegne anche le scuole. Ma soprattutto, al di là della battuta, capire quanta parte dei costi delle province sia coperta da spese cosiddette correnti, che vogliono dire anche i riscaldamenti, ma vogliono dire anche soprattutto le consulenze, gli stipendi e i costi dei dirigenti massimi e soprattutto della parte elettiva, e quanto invece serve agli investimenti veri e propri, perché poi c'è la minaccia anche, non avremo più i soldi per le strade. Vi dico solo che i dati della spesa delle province, poi ne parleremo ampiamente, sono: le province spendono in Italia ogni anno 13 miliardi di euro, quasi 12 miliardi e 7, secondo il commissario Bondi, quello che ha in mano la spending review, cioè la revisione della spesa pubblica, vi è una spesa inefficiente, lo dice Bondi, non lo dico io, di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Allora, pensate che la spesa per il riscaldamento vale 160 milioni di euro e include sia le scuole che le sedi delle province, ma la spesa per gli organi istituzionali e la rappresentanza costa 120 milioni di euro, la spesa per gli affitti costa 200 milioni di euro. Allora uno dovrebbe dire, visto che spendi 200 milioni di euro per gli affitti e ne spendi molti molti meno per il riscaldamento delle scuole, non avremo più un posto dove andare a fare i nostri incontri, meeting, avere un luogo di rappresentanza. Questo lo puoi dire, perché ti costa più quello del riscaldamento delle scuole, no? Allora, a rigor di logica, non avrai più quei soldi. Perché i primi soldi che vengono tagliati sono quelli, secondo Saitta, del riscaldamento delle scuole? Cercheremo di capirlo. Poi c'è la spesa per carburanti, 33 milioni di euro. Ecco, uno può dire, non avremo più benzina per le auto della provincia. Questo lo puoi dire, no? Se uno va per priorità. Poi, come ultimo, non avremo neanche più i soldi per il riscaldamento delle scuole. Ecco, non si è sentito parlare di auto della provincia ferme, magari delle auto blu della provincia ferme, Ci toccherà prendere l'autobus. Immaginate se il presidente della provincia avesse detto: ci toccherà prendere l'autobus, non avremo più la benzina per gli autisti. Il paese sarebbe crollato in una disperazione profonda. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi parleremo invece di dati, ahimè, molto più seri, quelli sulla produzione industriale italiana, che nei primi 9 mesi dell'anno ha fatto un meno 6,5%. Oggi il dato riguarda settembre. Il settembre è stato un settembre brutto, meno 5% quasi la produzione industriale rispetto a settembre del 2011. Va male il tessile e l'abbigliamento, soprattutto meno 6%, e la meccanica meno 3,6. Invece meglio va la farmaceutica, l'elettronica e devo dire anche l'alimentare tiene. La Banca d'Italia però fa sapere che nel nostro mezzogiorno si è tornati ai livelli del 2009 come produzione industriale, del primo trimestre del 2009. Vedo già i messaggi degli ascoltatori. 349-238-6666, dicevo, rapidamente le altre notizie in breve. No, è arrivato anche un suggerimento interessante, mandiamo gli alunni a scuola negli uffici delle province, cioè se il riscaldamento resta negli uffici delle province e non nelle scuole, io voglio seguire il ragionamento fatto dal presidente dell'Unione delle Province Italiane, che mi sembra assurdo, ma lo voglio seguire, cioè mi sembra terrorismo. Allora, se non ci sarà riscaldamento nelle scuole, vorrà dire che gli studenti andranno laddove il riscaldamento c'è. Mi sembra di capire che gli uffici provinciali, anche quelli a Bruxelles, avranno riscaldamento. Allora mandiamo gli studenti agli uffici provinciali, facciamoli trasportare dagli autisti, non so, facciamo qualcosa, no? Vabbè, andiamo avanti. Lo spread è sceso, per modo di dire, a 364 punti, resta sempre più alto delle ultime settimane. In Grecia martedì vi sarà un'asta di titoli di Stato per evitare il fallimento dello Stato greco. La Grecia dovrà emettere infatti bot per rimborsare 4 miliardi di bot in scadenza il 16 novembre ed evitare un default, un fallimento sul debito. Non vi è in questo momento la possibilità che l'Eurogruppo sblocchi la tranche di aiuti entro il 12 novembre, è una tranche che vale 31 miliardi di euro. Atene metterà all'asta appunto martedì titoli a 1 e 6 mesi per un totale di 3 miliardi e 125 milioni. E da Bruxelles l'Eurogruppo, quindi i ministri dell'area euro, fanno sapere che la decisione sulla Grecia non arriverà lunedì, ma non vi sarà un fallimento. Per la Grecia non ci sarà nessun default, né premeditato né accidentale. Poi è dibattito in Europa, in realtà la Commissione Europea sta decidendo quanto pagare del cosiddetto fondo di solidarietà, che vale 670 milioni. Dentro questo fondo ci sono anche i soldi per degli aiuti europei per le aree terremotate dell'Emilia. Allora, lì non è che vi sia stato un veto, è ancora una trattativa in corso, però tutti i paesi hanno riconosciuto che l'Italia ha diritto ai finanziamenti del fondo di solidarietà, però Germania, Olanda, Finlandia, Gran Bretagna e Svezia non vogliono, secondo alcune fonti, non vorrebbero pagare il conto. La riunione è ancora in corso, la Commissione comunque ha chiesto una cifra record per il bilancio 2012 di 9 miliardi e per il bilancio 2013 un aumento del 7%. Anche la Commissione Europea, lo dico con massimo rispetto, però dovrebbe dare un segnale, chiedere un aumento del budget per del 7% non è il massimo. Restando in Italia, ricordate quella frase infelice del ministro Fornero sui giovani italiani un po' chiusi, un po' schizzinosi? Allora, la Banca d'Italia oggi ha fatto uno studio in cui sostanzialmente i giovani italiani non sembrano essere troppo schizzinosi quando si tratta di lavoro. Il 25% dei laureati che ha trovato un lavoro nel 2009-2011 ha un'occupazione con bassa o nessuna qualifica, quindi per cui non serviva neanche la laurea e in alcuni casi nemmeno il diploma. E poi il 32% svolge mansioni diverse dall'ambito tematico, cioè dal tipo di laurea che ha ottenuto. Pensate che in Germania sono solo il 18%. Il mercato del mattone, secondo il sondaggio sul mercato delle abitazioni in Italia, sempre la fonte è sempre la Banca d'Italia. Resta in difficoltà il mercato, calano notevolmente le compravendite e la quota di agenzie immobiliari che è riuscita a vendere almeno un immobile nell'ultimo anno è calato al 55, è calata al 55%, cioè il 10% in meno. Quasi un milione di famiglie vuole comprare casa nonostante la crisi, questo invece è il Censis che ce lo dice, però meno della metà in realtà chiuderà un contratto. Che ci sia la crisi, noi cerchiamo di raccontarlo anche, oddio crisi, ormai siamo veramente di fronte a un cambio strutturale, di paradigma, come dice chi ha studiato, però lo raccontiamo anche con segnali che non siano solo i dati aggregati. Beh, insomma, il traffico autostradale, meno 7,5% nei primi 9 mesi dell'anno, è chiaro che quello è un indicatore che ricorda un po', mutatis mutandis, il Baltic Dry Index, cioè meno camion ci sono, meno merci viaggiano, meno attività produttiva c'è, così come il Baltic Dry Index misura quanto costa noleggiare un cargo per trasportare merci che non siano petrolio, e più basso è questo indice più l'attività economica sta rallentando a livello mondiale. Per inciso, il Baltic Index ormai praticamente sta viaggiando sui 4.000, era sceso poi 2.500 punti a luglio 2010, il minimo fu toccato nel febbraio del 2012 a 647 punti. E adesso ci occupiamo, prima di arrivare alle province, siccome ci ha scritto anche di nuovo l'ufficio stampa dell'Aeronautica Militare spiegandoci che le BMW 525 diesel non sono costate 70.000 euro ma 57.000, però confermando che ne hanno prese 10, io continuo a ritenere che per un ufficiale, alto ufficiale dell'aeronautica possa bastare una macchina possibilmente italiana. So che il bando è un bando, è una gara vera, ci mancherebbe, che però possa anche servire una macchina meno costosa di una 525D, sarò così pauperista, dolciniano come dicono alcuni. In realtà qualche altra notizia che avevamo promesso sul nostro stato maggiore, esercito, marina, aeronautica, massimo rispetto per tutti i militari italiani, a maggior ragione per quelli impegnati nelle missioni all'estero. Qui però stiamo parlando, diciamo, di chi non va all'estero a compiti di vertice in Italalia. 349-238-6666 e Rino Gaetano. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Intanto vedo anche notizie sulla provincia. Mi scrive un ascoltatore che la provincia di Treviso manda un taxi a prendere e a riportare i dipendenti dalla stazione ferroviaria alla nuova sede della provincia. Io spero che non sia vero, spero che sia uno scherzo così di fine settimana. Immagino che anche i taxi non potranno più portare i dipendenti della provincia, visto che non ci sono più i soldi per i riscaldamenti delle scuole dei bambini. Tutti col maglione, chissà se i figli dei presidenti, degli assessori della provincia vanno nelle scuole dove verrà chiuso il riscaldamento. Questa è una bella domanda che mi sottopone un ascoltatore. Penso proprio di sì, infatti sono molto preoccupati. Ma andiamo avanti. La casta con le stellette. Allora, io ripeto, massimo rispetto per le nostre forze armate, però esercito, marina e aeronautica hanno 425 generali per 178.000 militari. Negli Stati Uniti i generali sono il doppio, 900, ma i soldati sono 10 volte. Allora, voglio dire, il rapporto dovrebbe essere a questo punto sostanzialmente un quinto più basso, no? Per cui dovremmo avere non 425 generali, ma averne, diciamo, la metà forse, almeno la metà. Poi la cosa è interessante, abbiamo più generali di corpo d'armata, che il corpo d'armata è quello che riunisce varie armate, che corpi di armata. Cioè abbiamo 64 generali con la carica di generale di corpo d'armata e sono tre stellette, se non ricordo male, perché brigata è uno, divisione 2, corpo d'armata 3, adesso non vorrei dire, e 4 la generale d'armata. Comunque vado a memoria, ho fatto il servizio militare un po' di anni fa, però abbiamo 64 generali di corpo d'armata e 30 armate. Secondo il collega Andrea Nativi della rivista Italiana Difesa, che ogni tanto sentiamo, 150 generali su 425 presenti sarebbero ampiamente sufficienti. Poi voi direte, vabbè, ma magari non pesano. No, costano, perché allora, un generale guadagna circa 7.000 euro netti al mese, e vabbè. Ha diritto all'alloggio. Per 44 generali si tratta di appartamenti extra lusso da 180 a 440 metri quadri, telefonino, macchina con autista e poi soggiorni a prezzi irrisori nelle foresterie della difesa, nelle località turistiche. Andando in pensione con il vecchio sistema retributivo, incassa un assegno previdenziale che è delle volte addirittura superiore allo stipendio. E poi ci sono speciali indennità ad personam. Il generale Biagio Abrate, che immagino smentirà, capo di Stato Maggiore della Difesa, guadagna tra indennità e tutto 482.000 euro lordi l'anno. I numeri 1 di Marina, Esercito e Aeronautica, circa 480.000 euro l'anno. Il segretario di generale della Difesa, 450.000 euro. Poi c'è anche Monsignor Vincenzo Pelvi, che è capo dei cappellani militari e ha la carica e lo stipendio equiparati a quello di un generale. E quando lasciano l'incarico, incassano liquidazioni vicine al milione di euro. No? Poi il primo che mi viene a dire che non ci sono i soldi per il blindato Lince, per mettergli delle corazze sotto, poi dite che divento populista, ma potrei anche esagerare. Vabbè. Allora, ai militari italiani in Afghanistan è stato vietato di mangiare la mensa dell'esercito americano statunitense perché costa troppo. Bene, c'è la spending review anche per i nostri militari che rischiano la vita in Afghanistan. Va bene, però ci sono delle piccole incongruenze, chiamiamoli faraonici banchetti. L'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, in visita sull'incrociatore Caio Duilio alla Spezia, quando è arrivato si è visto preparare il seguente buffet: vino bianco ghiacciato, grana, olive nere, mandorle salate, come specificato tramite mail. È finito su tutti i giornali, addirittura la mail per specificare quello che il generale voleva trovare quando arrivava. Pizzette, rustici, tartine, caffè, caffè d'orzo, tè verde e stesso trattamento a bordo dell'incrociatore Mambella a Taranto con l'aggiunta di champagne e camerieri. Allora, voglio dire, no? Citiamo un caso, Rommel, che era la famosa volpe del deserto, rimase scandalizzato quando arrivò nel Nord Africa e scoprì che l'esercito italiano, quello di Graziani e Badoglio, aveva diversi menù a seconda di che uno fosse soldato, sottufficiale e ufficiale, perché nell'esercito tedesco si mangiava tutti quanti lo stesso tipo di rancio. Ci risiamo? No? Aspetto smentita dall'ufficio stampa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e anche dello Stato Maggiore della Difesa. Se i dati sono sbagliati, contestateceli oppure confermateceli, come ha fatto indirettamente l'ufficio stampa dell'aeronautica militare. Ma dai, un bel quinto potere su questo invito nostro, e poi parliamo dei presidenti delle province. Ma cos'è questa crisi? Non è chiaramente quinto potere, ma adesso. Adesso cominciate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. E questo è il nostro invito tradizionale. Gianni Trovati, buonasera. Buonasera a voi. Allora, hai mantenuto la promessa, sei tornato per raccontarci in realtà sulle province quanto spendono quanto si spende di spese vive, spese correnti e invece di investimenti, perché, lo ripeto, ce lo facciamo sentire, il presidente dell'Unione Province Italiane Antonio Saitta, stavo per dire dell'Unione Petrolifera Italiana perché anche lì abbiamo una saga in corso da anni con De Vita. Comunque il presidente delle province italiane non solo l'ha detto ieri, in questo modo dovremmo chiudere i riscaldamenti dalle scuole, ma l'ha ribadito oggi con Oscar Giannino nel nostro programma 9 in punto. Siamo in una situazione in cui per dare applicazione alla spending review sostanzialmente dovremmo chiudere molte scuole perché non possiamo fare investimenti e probabilmente neppure consentire che le scuole funzionino perché non abbiamo i soldi per il riscaldamento. Cioè siamo arrivati al punto in cui questo tema delle province, che era diventato uno dei grandi temi, quando si toccano i servizi. Abbiamo deciso di alzare il tiro perché questa discussione sulle province, che sembra una discussione puramente, come dire, di ordinamento, in realtà vuol dire i servizi, perché noi abbiamo 12 miliardi di costo che sono per i servizi. Quando ci vengono tagliate le risorse è chiaro che i servizi si riducono. Sì, giustamente poi molti scrivono anche che poi si annaspano sempre i mezzi operativi dell'esercito, dei carabinieri, no? E vabbè, cosa devo dire? Se veramente però ha ragione Andrea Nativi, che è uno dei massimi esperti e direttore della rivista Italiana Difesa, che basterebbero 150 generali, ripeto la proporzione, è 425 generali per 180.000 militari, in America 900 generali per 1.800.000 militari. Allora, fatte le proporzioni, ne bastano 150, a casa gli altri 300, il paese sopravvive anche senza 300 generali, tanto la pensione con questo metodo del retributivo la becca un altro uguale, ma almeno non continuiamo a pagare appartamenti, autisti, spese vive, foresteria, ricevimenti, eh? Oppure tutti alla mensa dei militari italiani in Afghanistan, non quella statunitense, perché lì è troppo cara. Barisoni, lei si rende conto che con questi toni lei è come Grillo? No, guardi, a me non mi frega nulla di cosa sembro. Noi in un programma di economia raccontiamo gli sprechi di questo paese, perché abbiamo sempre difeso il governo Monti nel dire bisogna ridurre, bisogna mettere a posto i conti. Stanno arrivando una dopo l'altra ammazzate fiscali a tutto il paese, la legge di stabilità gliel'hanno smontata in Parlamento. Ecco, di fronte a questo, visto che parlavamo di generali, diciamo alla guerra come alla guerra, allora se tutti dobbiamo soffrire e sacrificarci, lo fanno anche le caste, che è quella dei politici, dei manager pubblici e anche quella dei generali. Qual è il problema? Che denunciare gli sprechi significa dare ragione a Grillo? Se la pensa così, poi non mi sorprendo che Grillo prenda tutti questi voti. Vabbè, dai, Gianni Trovati, dimmi solo quanto costano le province e quanta parte di questi costi va per i riscaldamenti dei nostri figli, per le strade provinciali su cui rischiamo di non morire per colpa di buche, e quanta va invece per mantenere le province stesse, poltrone, uffici, riscaldamenti, affitti, consulenze, rappresentanza e quant'altro. Sì, allora, tre numeri per dare il quadro della situazione. Le spese correnti, quindi appunto tutte le spese, diciamo, ripetitive delle province nel 2011 sono state 8 miliardi e 454 milioni di euro. Per i riscaldamenti delle scuole, quelle appunto messe a rischio dalla spending review, e anche per i riscaldamenti delle sedi, si sono spesi sempre nel 2011 161,7 milioni. Quindi parliamo 161,7 milioni su 8,45 miliardi. Quindi è una, diciamo, percentuale abbastanza. Allora fammi capire, è come se una famiglia, diciamo, spendesse, poniamo, in un anno 8.400 euro di spese vive, e di fronte all'ipotesi di ridurre queste spese dicesse: bene, io quei 160 euro che spendo ogni anno per non so, il cappotto di mio figlio non li potrò più utilizzare, perché vai a tagliare come prima cosa il cappotto invernale di tuo figlio. Esattamente, bellissima, sì, no? Le proporzioni sono, vorrei vedere quale famiglia che spende 8.400 euro, perché stiamo facendo un rapporto, no? 8.400 euro all'anno di spese vive, vestiti, la madre dice no, non si può, per il cashmere sì, leviamo il cappotto al bambino. Ma io, cioè, stiamo pazziando veramente. Saitta, avete 8 miliardi e mezzo di spese all'anno vive, 8 miliardi e mezzo di spese vive sono le province, e ci venite a raccontare che se vi fanno una spending review dovete tagliare proprio i 160 milioni che servono per il riscaldamento delle scuole e anche per le vostre sedi, però io lì delle sedi non ho sentito parlare, mi è sfuggito. Gli affitti, per fare un esempio, che invece riguardano generalmente solo le sedi, perché le scuole non sono in affitto generalmente. Per ora no, diciamo. Costano più del riscaldamento, perché sono 199 milioni all'anno. Quindi allora, tagliate gli affitti. Gli affitti degli uffici, diciamo così, costano 199 milioni all'anno. Allora, una cifra invece di poco inferiore a quella sempre dei riscaldamenti, che ricordiamo, mettono assieme i riscaldamenti delle scuole, ma anche i riscaldamenti delle sedi. No, però Saita ha parlato solo dei riscaldamenti delle scuole, perché giustamente tra un adulto e un bambino... In un paese come il nostro, chi deve pagare per primo è bambino, così impara dove vive. Prego. Gli organi istituzionali dell'ente, quindi le indennità, i rimborsi per chi arriva da fuori, il consigliere che arriva da fuori. Dai, parliamo dei rimborsi, dai. Sono 116,2 milioni di euro all'anno, quindi un pochino meno, insomma, delle utenze per il riscaldamento, che ricordiamo sono 161. Allora io chiedo a tutti i consiglieri provinciali in ascolto, presidente della provincia, ex, una domanda. Consiglieri, ma tra rinunciare al rimborso per la spesa chilometrica dell'auto che sostenete e avere i vostri figli al freddo e al gelo, con i geloni, con il cappotto e la sciarpa, che cosa scegliete? Mi sembra che il vostro presidente abbia detto tagliamo chiaramente il riscaldamento delle scuole. Siete invitati a scrivere al 349-238-6666 per i vostri sms, oppure su Facebook. Poi raccontiamo altre cosucce su come vengono spesi tutti questi soldi delle province. Io capisco che tagliare è difficile per tutti, ma lo fanno le famiglie italiane quando c'è bisogno, e non riesce a farlo un presidente della provincia. Dunque, stanno fioccando, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, le proposte per evitare che le province taglino il riscaldamento ai nostri figli a scuola. C'è chi ha proposto di mandarli a scuola d'estate, così fanno le vacanze d'inverno e aggiriamo il problema di Saita. Non male, vorrei vedere poi cosa ne pensano i genitori. C'è chiesto di fare le lezioni nelle assemblee consigliere della provincia, ma sì, dico, tanto non è che ci sia questo lavoro da Stakhanov nelle province quanto a consiglieri. Tutte le volte che non si riunisce un consiglio provinciale potremmo fare le lezioni lì, sarebbe un bel gesto della politica. Però visto che ho, diciamo così, c'è molta aria in questo studio che proviene dal basso, io partirei con Rino Gaetano e farei raccontare di nuovo a Gianni Trovati le varie voci di spesa, perché attenzione, è vero che il governo ha fatto un po' di confusione, perché non sappiamo più che cosa devono fare le province. È vero che molto si è molto concentrati sull'accorpamento, che secondo me è un finto problema, nel 2012, ma il governo ha chiesto 500 milioni di tagli su un totale di 12 miliardi e 3 di spesa. Adesso con Gianni Trovati andremo a sentire, al di là della spesa per riscaldamento, che incluso il riscaldamento delle sedi provinciali costa 160 milioni, Saita, 160 milioni tra scuole e i vostri alloggi, vediamo se c'è qualche altra spesa che potrebbe essere tagliata prima di arrivare a chiudere il gas ai bambini mentre fanno lezione. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, Gianni Trovati, veramente bisogna tagliare il riscaldamento o c'è qualche spesuccia che potrebbe essere contenuta? Le voci, ma ci sono spese che sono più o meno analoghe a quella che è la spesa per il riscaldamento delle scuole e delle sedi. Per esempio, l'acquisto e la manutenzione dei programmi software gestionali, diciamo così, degli uffici delle province costa 110 milioni di euro all'anno. L'organizzazione di manifestazioni e convegni costa 40 milioni all'anno. gli incarichi e le consulenze costano 50 milioni all'anno, mentre ripetiamo, le spese per indennità, rimborsi e spese di rappresentanza dei consiglieri, degli assessori, dei presidenti e così via, viaggiano intorno ai 120 milioni all'anno. Allora, io faccio il calcolo della serva, perché sapete, io mi rendo conto che Saita abbia altri obiettivi, ma noi siamo abituati a ragionare così, che se ci dicono devi tagliare il 10% delle spese di casa tua, non è che come prima cosa leviamo il latte al bambino, no? Magari teniamo il cappotto qualche mese in più, ma insomma, mi rendo conto che siamo un po' così limitati. Allora, io faccio 50 milioni, 40 milioni di convegni e manifestazioni, che voglio dire, viviamo anche senza. 50 milioni, mi avevi detto, scusami... incarichi e consulenze. Incarichi e consulenze, siamo a 90 milioni. Poi le spese di rappresentanza, se bisogna sacrificarsi, spendiamo meno. Diciamo che le riduciamo alla metà, e siamo a 60 milioni, lasciando comunque la possibilità di avere spese di rappresentanza, e siamo arrivati a 150 milioni. E poi... Ma ce n'erano 110 per la manutenzione e l'acquisto del software, dei computer, degli uffici. Ecco, delle diciamo, fate uno sforzo per un anno, usate il software, niente Windows 8, ma 2.0, si può fare, ve lo garantiamo anche noi. E siamo già arrivati a una cifra superiore ai 200, a metà, dico, non tutto, metà. Ai 200 milioni. Ora, siccome la spesa per il riscaldamento delle scuole costa ben meno di 160 milioni, perché ci sono dentro anche le sedi della provincia, il nostro suggerimento, perché vogliamo essere costruttivi, caro Gianni, potrebbe essere quello, cioè tagliare le consulenze, le manifestazioni, i convegni, tagliare della metà i rimborsi chilometrici per andare al lavoro, che c'hanno solo loro, tra l'altro, e a noi non ce li danno i rimborsi. Ah, attenzione al lavoro, al consiglio, ci mancherebbe, e tagliare dalla metà gli investimenti in informatica, dove poi dentro vai a capire se c'è efficienza o no. Questo non ho detto. In questo modo si risparmia molto più delle scuole, no? Della chiusura del riscaldamento, capito bene? Sì, poi volendo limare da qualche altra parte, ci sono anche 34 milioni di carburanti e lubrificanti delle auto. Della provincia e no, sul lubrificante, ti prego. Oggi butta male, per cui ci sono anche lasciamo stare il lubrificante. Quello consiglierei che venisse tenuto, diciamo, nelle spese. Riducete invece il carburante. Ma noi non vogliamo. Scusami, ti ho interrotto, Gianni. No, vabbè, c'erano anche 6 milioni di equipaggiamenti e vestiario, perché ci sono le divise della polizia provinciale. Perché noi abbiamo la polizia locale, la polizia provinciale, la polizia anche nazionale. Sembra Zorro con lo sceriffo, vabbè. Allora, io spero di aver dato seriamente a Saitta un aiuto per non fargli tagliare il riscaldamento delle scuole dei suoi figli, perché immagino che fanno scuole dove la provincia dà riscaldamento. Non mai potrei immaginare che i presidenti di provincia, i consiglieri mandino i figli nelle scuole private e quindi non vengano poi coinvolti dalla loro decisione di tagliare il riscaldamento. Però dico, ci sono altri metodi, quindi prima di fare queste sparate, questo terrorismo politico, lei ci dica, senta, abbiamo già tagliato tutte le consulenze, tutti i convegni, metà dei rimborsi chilometrici, metà dell'ammodernamento software, e quindi non ci resta che attaccarci alla canna del gas. E questo potrebbe essere forse un ragionamento, però vogliamo vedere i tagli sul resto. Gianni Trovati, sei un mito, noi restiamo allegri, perché così ci vogliono, anche così ci vuole anche Saitta. Vede come, con quanta allegria, ottimismo abbiamo affrontato il suo problema. Allegri, allegri! E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Dunque, di nuovo in diretta, sì, lo so, fra un po' lanceremo la rubrica Indignati sempre, dopo Disperati mai. Non vi dico i messaggi che arrivano anche su Facebook, proprio sulla regione, sulla provincia di Torino, Saitta di lì, no? Comunque, adesso devo fare la borsa, non posso andare avanti. Ho capito che... Dai, lasciamo stare sul lubrificante, per favore, dai. Fatemi andare avanti. La borsa. La borsa. No. Se vedeste cosa scrivono alcuni ascoltatori. Allora, Paolo Paronetto, Radio Coris, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, oggi più piatta per fortuna la seduta, meno 0,09 Milano, meno 0,11 Londra, più 0,47 però Parigi e più 0,38% l'America, meno 0,60 Francoforte. Tra i titoli, anche oggi molta influenza sulle trimestrali, o di quelle già uscite o di quelle che sono in procinto di uscire. Finmeccanica più 6,30, dopo i conti, molto buoni. Telecom Italia più 3,70, Saipem più 1,90. Io partirei da Finmeccanica, Telecom e Saipem e poi farei invece sul fronte opposto Mediolanum meno 4,20, Autogrill meno 2,70 e anche Prysmian meno 1,40. Per quanto riguarda l'andamento generale della borsa, come dicevi tu, oggi è andata meglio grazie ai dati macroeconomici americani che sul finale hanno permesso proprio di recuperare la parità. Quanto ai titoli, il tema del giorno anche oggi è stato appunto quello delle trimestrali. Su Finmeccanica il mercato ha apprezzato in particolare la conferma del piano di dismissione da 1 miliardo che dovrebbe essere concluso entro la fine dell'anno e quindi secondo molti osservatori le prossime settimane potranno essere decisive, dovrebbe essere in arrivo una nuova offerta per Avio, mentre per Ansaldo Energia la formalizzazione delle offerte vincolanti, anche questa è attesa nelle prossime settimane, quindi il mercato aspetta novità su questo, si avvicina il termine annunciato del management e quindi è questo il tema che soprattutto sospinge in alto il titolo. Quanto a Telecom Italia, i conti stamattina sono stati in linea con le attese degli analisti che hanno apprezzato soprattutto anche qui la conferma degli obiettivi di fine anno e anche delle indicazioni della guidance sul dividendo che sarà preso come base quello dello scorso anno per tutti i prossimi anni, quindi anche queste sono indicazioni positive, cioè soprattutto non sono arrivate notizie negative. Un altro titolo anche che si è mosso sui conti sul finale è stato Parmalat, più 1,4%, sono arrivati appunto i risultati del trimestre e la società ha annunciato gli obiettivi di EBITDA a fine anno, il titolo si è mosso positivamente. Per quanto riguarda i titoli negativi che hai citato, Mediolanum ha perso quasi il 5%, nonostante ieri la trimestrale sia stata in deciso rialzo, ma qui gli operatori segnalano che il titolo era salito molto nelle ultime settimane e quindi era salito molto anche appunto in attesa di questi conti trimestrali, quindi con la pubblicazione dei dati si prende profitto e quindi gli investitori hanno venduto. Per quanto riguarda inoltre Autogrill, che è stato il secondo peggior titolo sul FTSE MIB, verso il 2,75%, anche in questo caso si tratta di realizzi dopo il più 30% fatto segnare dai minimi di fine luglio, oltre che da una piccola delusione per il lieve taglio delle stime di EBITDA 2012 annunciato ieri, sono state abbassate di circa 15 milioni e quindi comunque anche questa è una piccola notizia negativa che ha pesato sul titolo. Grazie Paolo Paronetto, vi do anche i migliori e peggiori. Oggi la giornata, come capite dall'indice, non ha avuto particolari spunti. Mi riferisco a Arena più 39%, Bastoggi più 8,70, fronte opposto invece Sintesi meno 35%. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, come promesso, adesso ci occupiamo dell'altro dato importante, notizia importante uscita oggi, riguarda la nostra produzione industriale. E a questo punto è l'ultimo dato di una settimana in cui prima l'Istat, poi la Commissione Europea ci hanno ricordato, o perlomeno confermato, che quest'anno chiuderemo con un calo del PIL del 2,4%, l'anno prossimo, se tutto va bene, faremo meno 0,5%, perché vi dovrebbe essere un inizio di ripresa dal secondo/terzo trimestre del 2013. Però attenzione, le preoccupazioni sono state espresse a ogni livello, Bruxelles, Francoforte, intesa come Banca Centrale Europea, e oggi il dato, dicevo, sulla produzione industriale. A settembre un calo di quasi il 5% rispetto al settembre del 2011, il che vuol dire che la frenata c'è e c'è tutta, e il dato è già corretto per gli effetti del calendario. E tra l'altro i primi 9 mesi dell'anno a questo punto vedono calare la nostra produzione industriale del 6,5%. Per quello che riguarda i settori, nel mese di settembre stabile l'alimentare, meno 1% rispetto a un anno prima, pesante il calo del tessile e abbigliamento, meno 6%, e anche della meccanica, meno 3,6%. La chimica è ferma, mezzi di trasporto meno 1%, farmaceutica più 3,6%, elettronica più 3,6%. Questo nel giorno in cui la Banca d'Italia ci ha fatto sapere che nei primi 9 mesi del 2012 i livelli di produzione industriale del nostro mezzogiorno sono tornati ai livelli minimi della primavera del 2009, cioè subito dopo lo scoppio della crisi Lehman Brothers per intenderci, e che Unioncamere ci fa sapere che nel quarto trimestre dell'anno verranno persi 120.000 posti di lavoro. Ci saranno in realtà 218.000 assunzioni, ma solo il 20% a tempo indeterminato. La Confcommercio stima che stia chiudendo praticamente un'impresa al minuto, e le richieste di prestiti delle imprese alle banche hanno toccato i minimi dal 2008, cioè solo il 15,5% delle imprese, del terziario in questo caso, si è rivolto alle banche per chiedere un prestito nel terzo trimestre del 2012. Allora, partendo da questi dati congiunturali, cioè di fotografia del presente, cerchiamo di capire come i territori più produttivi, più esposti alla concorrenza, la locomotiva d'Italia, chiamatele come volete, stiano reagendo a una crisi che non solo continua a mordere, ma sta prolungando la sua morsa, cioè si è fatta, inutile nascondersi, più lunga del previsto, tant'è che molti ormai non parlano più di crisi, ma di cambio strutturale, di rivoluzione vera e propria. 349-238-6666 per i vostri sms. E lo facciamo con chi studia da sempre, come un entomologo studia un bosco, una foresta, il mutamento anche di pelle dei distretti industriali italiani, e quindi da un lato il nord-est di questo paese è terra per antonomasia dei distretti assieme alla dorsale adriatica italiana, e dall'altra poi tutta invece l'asse ancor più pedemontano, l'asse che collega Milano con Torino, quindi il cosiddetto nord-ovest. Grazie quindi al direttore della Fondazione Nord-Est, Daniele Marini. Buonasera Marini. Buonasera a voi. E grazie anche al presidente dell'Aster, editorialista del Sole 24 Ore, sociologo Aldo Bonomi. Buonasera anche a lei. Buonasera. Marini, iniziamo dal nord-est, che rispetto al nord-ovest, lo dico per sommi capi, ha due problemi in più. Ha imprese meno grandi come dimensioni e quindi può contare meno sull'indotto che deriva dalle grandi gruppi, e è privo di un centro urbano capace di catalizzare poi ricerca, sviluppo, teste, attrarre. Non c'è nessuna Milano, nessuna Torino, diciamo, nel nord-est. E di questo con lei abbiamo già parlato molte volte, perché risulta poi uno svantaggio competitivo. Come stanno reagendo i cosiddetti, o quelli che una volta chiamavamo distretti, visto che comunque i dati sull'export sono buoni? L'anno scorso un 12% di export è stato quello che ha realizzato il Nord-Est. Come si stanno rimodellando? Diciamo che rispetto ai dati negativi c'è un aspetto positivo, cioè che il territorio del nord-est è quello dove la presenza delle medie imprese industriali è particolarmente accentuata, come in tutto il nord, ma qui in misura ancora un po' più netta, soprattutto tenendo presente che queste medie imprese, che sono quelle fra i 50 e i 250 dipendenti, hanno nel nord-est ognuna di queste relazioni con oltre 270 piccole imprese che lavorano insieme con loro, e questo è il dato, diciamo così, confortante, interessante, perché questo vuol dire che queste imprese, che sono quelle che più di altre sono posizionate sui mercati esteri e non solo europei, anche extraeuropei, perché poi qui bisognerebbe che facessimo un inciso sul fatto che il problema è italiano, ma il problema in generale è europeo, quindi quelle imprese che hanno un export soltanto in Europa oggi conoscono anche questa è una flessione, quindi bisogna guardare quelle che hanno una proiezione sui mercati esteri, diciamo così, più distanti dalla UE, e queste si trascinano dietro queste più piccole. Questo è l'elemento interessante. La questione è che, appunto, come ricordava, non esiste, diciamo, una capacità attrattiva altrettanto tanto quanto quella di essere esportatori sui mercati esteri, tant'è che i dati negativi che snocciolava all'inizio ci stanno tutti e li abbiamo, li vediamo anche sugli ultimissimi dati congiunturali rilevati in ambito nordestino. Il problema vero sono le imprese che hanno un mercato domestico, cioè quelle imprese che vivono solo degli scambi all'interno della propria provincia, sì, o della regione o anche della stessa Italia. Dove lei ha ben chiarito che per mercato domestico si intende ormai il mercato europeo, dell'area euro, perché è anche quello che insomma sta frenando. Bonomi, vorrei capire se c'è una reazione analoga anche in quelle che lei chiama ormai piattaforme, non più distretti, del nord-ovest, cioè diciamo da Brescia fino a tutto il Piemonte. Se vuole coinvolgere anche l'Emilia Romagna siamo più che contenti, e se si ritrova nell'analisi di Marini. Ma io condivido l'analisi di Marini, che è molto orientata giustamente al settore manifatturiero, le medie imprese, le filiere delle medie imprese che caratterizza il nord-est. Ma se posso rispondere alla sua domanda iniziale, che è stato uno snocciolare di cifre problematiche, ecco, io credo che, almeno io ragiono rispetto alla dimensione del capitalismo di territorio italiano, se è in atto una metamorfosi. Dove vedo una metamorfosi? Perché poi è una metamorfosi che sta venendo avanti. Sì, non è più una crisi, dai. Non è una crisi, è una metamorfosi. Certo. Allora, detto in maniera molto schematica, partirei, se mi è permesso, non tanto dal nord-ovest classico, ma ad esempio c'è una metamorfosi in atto nell'arco alpino, nel distretto alpino. Tenga presente che quell'area che va da Cuneo a Gorizia, e se posso citare il Sole 24 Ore, è quell'area che ogni anno, quando facciamo la classifica del PIL, delle province o delle città italiane, abbiamo una volta in prima Belluno, una volta Trento, una volta Cuneo. Quindi attenzione, perché se parliamo di Belluno non parliamo solo di Cortina d'Ampezzo, parliamo di Luzzottica, tanto per capirci. Certo. Allora, in quell'area c'è una metamorfosi che riguarda in parte il turismo, in parte il discorso delle risorse ambientali, in parte il discorso delle risorse energetiche, e una metamorfosi manifatturiera che ad esempio ha delle punte di eccellenza come Luzzottica, oppure delle isole come il Trentino, in cui ancora i dati tengono da tutta una serie di punti di vista. Quindi primo dato, questa piattaforma del distretto alpino. Secondo dato, arriviamo alla piattaforma pedemontana, tanto per capirci, perché poi è vero che i cugini del nord-est hanno, virgolette, una specificità, e che nel nord-ovest c'è, virgolette, ancora più grande impresa, però andrei cauto, cioè quello che il dato riguarda cosa sta avvenendo nella piattaforma pedemontana lunga che va da Torino a Trieste, dove poi fondamentalmente è incardinato il nostro capitalismo manifatturiero. Beh, lì i cambiamenti ci sono, e come, e lì abbiamo ovviamente medie imprese che ce la fanno, che si portano dietro una filiera anche nella dimensione della globalizzazione, e poi ci sono quelli che arrancano e che sono in difficoltà. Questo è il punto. Poi tornerò sul punto di Torino, perché io Torino lo guardo, penso un po', o pensi un po' lei, lo guardo soprattutto da Pomigliano e da Melfi, no? Tornerò poi, sì, a Torino. Allora, lo facciamo dopo l'informazione per il traffico, perché ho capito benissimo quello che stai dicendo. C'è una cosa che mi sfugge, però. Quando devi dominare fenomeni così complessi come un cambio epocale, perché la crisi dura un anno, qua ormai siamo al quarto anno, andiamo avanti per altri cinque, questo è ormai un cambio, è come passare dall'adolescenza alla maturità o quello che volete voi. Beh, di solito fare tutto da soli può non bastare. Il nord-est è un caso di chi ha saputo fare da solo, ma quando le reti erano più vicine, esportavi in Germania, in Francia, in Gran Bretagna. Adesso hai la Cina, l'India, il Brasile, la Turchia, e vorrei capire da quei territori e da quello che voi capite quali richieste arrivino alla politica. Negli anni 90 c'era la richiesta fiscale, le chiavi degli imprenditori date dei capannoni, date in maniera polemica al governo. Ecco, che tipo di richiesta stia arrivando, non di aiuti, ma diciamo di accompagnare il territorio più produttivo verso la sua naturale ma ovvia metamorfosi. Ultima parte di Focus Economia, con voi sempre Sebastiano Barisoni. Dunque, Daniele Marini, abbiamo capito come si sono mossi questi territori, come si stanno muovendo. La richiesta che arriva, visto che andiamo sotto campagna elettorale, alla politica, meno tasse come negli anni 90 o qualcosa di politica introdurre anche agli altri soggetti, mondo, governo del territorio e anche banche, o una capacità di fare un percorso assieme, di non vedersi più antagonisti? Beh, diciamo che c'è la consapevolezza, come si diceva prima, che quello che stiamo attraversando non è una fase di crisi tradizionale, ma se posso fare un esempio, è assolutamente analoga a quella che i nostri avi hanno vissuto nel passaggio dal mondo agricolo a quello industriale, dal mondo rurale all'industria. Sono d'accordo. Noi stiamo vivendo una fase di cambiamento paradigmatico, radicale. Ora, anche in questo senso servirebbero delle risposte alla politica altrettanto radicali. Allora, dalle ricerche, dalle indagini che facciamo, sicuramente c'è una consapevolezza che pensare a una diminuzione delle tasse in questa fase è molto complicato, ci sono i conti da mettere a posto innanzitutto, però se posso fare una sorta di agenda la metterei in questi termini, delle richieste alla politica. Uno è una forte semplificazione, una sburocratizzazione delle pratiche, perché già solo questo aiuterebbe in particolare il mondo dei più piccoli, da un lato. Dall'altro serve un aiuto per andare sui mercati esteri, e questo è chiaro che non lo può fare soltanto una regione o delle regioni, ma questo è un compito a livello nazionale. Siamo ancora in attesa di capire l'ICE, il rinato ICE, che cosa può fare sotto questo punto di vista, ma questo è l'aspetto fondamentale. Poi dal punto di vista dei territori, il terzo aspetto è quello che manca oggi, e cioè una capacità di rendere attrattivi i territori, territori che peraltro, non solo quelli del nord-est, ma quelli del nostro paese, potrebbero essere tranquillamente recettivi di investimenti se però si creano quelle condizioni per far sì che gli investitori esteri guardino il nostro paese come un territorio dove effettivamente investire. Bonomi, anche per lei. Ma in primo luogo io credo che si potrebbe continuare con questa geografia in maniera molto schematica. C'è la piattaforma della Via Emilia, la piattaforma della città adriatica, l'asse produttivo che va Toscana, Umbria, Marche, che regge, fino ad arrivare, pensa, per tornare a Torino che ho citato prima, a quell'asse dove è un problema l'evoluzione del nostro fordismo, ciò che resta del nostro fordismo. Sto parlando dell'asse Napoli-Taranto, dove abbiamo il problema di Pomigliano, il problema di Melfi e il problema dell'Italsider. Questi problemi dell'ILVA, lapsus, ci siamo capiti, ma ecco, quello è il punto. Allora, quelle piattaforme dove, diciamo così, il sistema manifatturiero nella sua complessità, dal fordismo al postfordismo, al capitalismo molecolare, alle medie imprese, sta cercando la metamorfosi della sua ristrutturazione. Hanno bisogno, e qui il problema non è solo una domanda alla politica, in primo luogo di un capitalismo delle reti efficienti. E quando dico capitalismo delle reti, devo dire che la manifattura da sola non basta, gli esempi di cui abbiamo parlato fino adesso io e Daniele Marini, ma che ci vogliono banche che accompagnano nell'internazionalizzazione e nella metamorfosi, ci vogliono reti della logistica, ci vogliono reti infrastrutturali, perché le piattaforme vanno rese competitive a reti lunghe e a capacità di attrarre. Questo è il vero grande problema. Dopodiché ci vorrebbe una politica che ha una visione di questa discontinuità e che incomincia a ragionare su come un sistema paese in Europa, dentro l'Europa, fa questa metamorfosi. Questo è il punto. Adesso, in una battuta, Marini e poi Bonomi, date un aiuto al prossimo candidato, ai prossimi candidati, visto che queste primarie e il voto siciliano stanno tormentando la politica. Non dico lo slogan che non mi piace, ma la parola chiave, se ve n'è una, che dovrebbe usare un candidato che si presenta, non mi interessa lo schieramento, nei territori più produttivi del paese, nord-est, ma comunque tutta la parte centro-nord, la parola chiave, Marini, secondo lei, per parlare, diciamo, non alla pancia, alla testa di queste persone, quale dovrebbe essere? Direi innovazione. Innovazione? Cioè innovazione su tutto? Sì. Sì, un'innovazione a 360 gradi, un'innovazione che non è... Cioè rompere con il passato, lei dice innovazione... Per rompere col passato. Bonomi? Reti lunghe. Beh, reti lunghe però, cioè uno va e dice, io voglio fare le reti lunghe. No, il vero problema è molto semplice, le reti lunghe sono una metafora, il vero problema è capacità di continuare ad essere il secondo paese manifatturiero d'Europa, ovviamente, dentro un cambiamento di discontinuità, dentro il quale il problema non è più ovviamente solo ed esclusivamente la dimensione localistica, ma una rete più ampia in cui portare il nostro sistema produttivo. Ma quindi se un candidato Bonomi avesse uno slogan un po' alla Obama, sul discorso tutti insieme porterò tutta l'America verso il futuro, cioè l'idea della rete? Il vero problema è che la speranza deve essere una speranza che si rivolge sia a quelli che stanno in basso con difficoltà, tanto per capirci, e sia a quelli che stanno nelle filiere con le medie imprese, dargli una speranza che ce la faremo, questo è il punto. Invece da un po' di tempo in qua si snocciolano solo giustamente numeri drammatici, ma dentro a questi numeri drammatici nessuno si assume la responsabilità di dire come se ne esce. Quindi dice, la parola chiave è forte, potrebbe essere: io mi assumo la responsabilità di farvi uscire stando tutti quanti assieme. Ho capito benissimo la vostra analisi. Io non so se questa verrà colta dai futuri candidati alle politiche. Invito tutti a non sottovalutare gli umori, la pancia della parte più produttiva, ripeto, oltre che più produttiva, più legata alle dinamiche internazionali del paese. E intanto però ringrazio Aldo Bonomi, editorialista del Sole 24 Ore, Daniele Marini, direttore della Fondazione Nord-Est. Come sempre un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione, Pietro La Corte per l'assistenza in regia. Noi ci sentiamo da lunedì in poi, dalle 17 in poi.